Avvocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ma beh, Sabrente mesulena, con patta te filarda, chi non mi fai cena, io digiuna garda. Rai lai lera, lera, lera, la lera, rai lai lera, lai lera, lera. Sono tutte cazzate. Sparita Zemanlandia, mo ce la faccio vedere di nuovo. Non brulli con i stonus, ti già sempre in au, va con bene i scontri, scalzeggia i vistau. Qui la palla schizza verso Sau! Sau per la quarta volta, segna San Siro! Sena carica il destro verso Nandarovic, la palla rimane lì, Sau e poi Ekdal! Subito il Cagliari, in 11 contro 10, a trovare il gol! Ibarbo si lancia da solo praticamente, Ibarbo, grande giocata, Ibarbo mette dentro, ancora Ekdal, ancora Cagliari, 3-1, una super giocata di Ibarbo. Ibarbo dalla bandierina, palla dentro, salta ancora Cepitelli, e la conclusione, il gol, ancora Cagliari. Io non credo che da ora in poi vinciamo tutte, però io sono contento che oggi ci è riuscita a giocare a calcio e mettere in difficoltà l'Inter. E Luigi Pardo, ti piace come quel... la tarantella sarda? Se ieri molto rock. Non ti sento. Molto rock. Molto rock. No, non mi sento. No, ci sono delle prove. Non t'ho sentito, non ho sentito che hai detto molto rock. Sì, no, l'Inter. Mi potete anche già chiamare al fisso, se volete. Al solito. Al solito 02. Taradà, adesso vi chiamiamo. No, comunque i temi sono chiari, no? Parlare di un campionato aperto sarebbe bugiardo. Ve li giro in ordine sparso, poi raccogliamo le vostre opinioni. 800 24 00 24, il numero verde. Inutile l'accanimento terapeutico su un campionato che ha già, come tra poco ci racconterà l'autore dell'articolo di oggi, il profondo niente alle spalle di Juventus e Roma. Inutile star lì, basta guardare la classifica, ma basta guardare anche la qualità del gioco espresso dalle altre. C'è troppa distanza. Aspettiamo una settimana che dirà molto in chiave europea e soprattutto in chiave europea per Juventus e Roma. Chiaramente non dirà tutto, anche se in fondo c'è l'unica sfida che conta per lo scudetto, ma è ovviamente molto presto, cioè Juventus-Roma di domenica pomeriggio. Poi la giornata si è chiusa con l'ultimo botto, quello di Gabbiadini nel derby di Genova, che è stata una meravigliosa zuffa, come spesso accade. Tornato Pardo? Sì? Sì. Hai commentato il derby di Genova, no? Sì. Solita bella zuffa, dai. Solita battaglia, sì, campale. Migliore in campo come sempre tifosi, che è veramente una partita eccezionale da quel punto di vista. E per il resto, partita da episodio, decisa dal gol di Gabbiadini. Che idea ti sei fatto sul gol di Gabbiadini? Un cross? Sì, è un cross tagliato. La prende De Maio, la deviazione è evidentissima. E mi fido dei moviolisti che dicono che è buono, insomma, al di là delle polemiche di Castellini. Non mi sembra che ci sia nessuna spinta o nessun particolare disturbo su De Maio che salta, e quindi a quel punto De Maio pulisce la posizione di fuorigioco, comincia di fatto una nuova azione, almeno questo mi hanno insegnato, e quindi poi bisognerebbe capire, allora, a quel punto, se i tre che vanno dalle parti di Perin, sì, se sono troppo vicini, ma non mi sembra, quindi insomma. Sì, ma secondo me qualche colpa anche Perin ce l'ha, dai. Su quella palla poteva fare qualcosa, poteva tentare di fare qualche cosa. Comunque, poteva tentare di fare qualcosa magari anche l'Inter, che ha preso delle botte in faccia senza reagire, ed è questa. Poi adesso siamo tutti a magnificare e glorificare Zeman, però se su un lancio verticale dall'altra metà campo due difensori si addormentano in quella maniera, io raramente ho visto cose del genere come sul primo gol del Cagliari, vabbè. Diciamo la verità, nessuna squadra di fascia piccola avrebbe vinto 4-1 a San Siro contro l'Inter, nel senso questa vittoria qui la può fare solo Zeman della seconda fascia, nel senso che qualsiasi altra squadra piccola in una situazione di 2-1 si sarebbe messa a blindare il risultato, cioè questi picchi di rendimento, questo mettere così a nudo le difficoltà difensive dell'Inter ieri lo può fare soltanto Zeman. Poi Zeman è anche uno che può perdere, come è successo delle partite all'inizio della stagione. Sono molto curioso, perché ne parlavamo l'altro giorno, facevo l'esempio di Bielsa, che ha cominciato male col Marsiglia ma poi è risorto, adesso è in testa alla classifica. Questi allenatori, diciamo, un po' più difficili, un po' più particolari, hanno magari un tempo di gestazione un po' più lungo, sì, per far assimilare i loro concetti base. Quindi la curiosità adesso è vedere se il Cagliari darà continuità a quello che si è visto a San Siro, se sarà stato soltanto un episodio. Sì, comunque è molto più interessante il tema Inter, perché non succede mai che una squadra, voglio dire, una grande squadra può sbagliare una partita, magari può pareggiarlo oppure perderla, ma non reagire totalmente in quella maniera è qualcosa che non si vede mai. Sì, soprattutto per una squadra che stava bene, che era in salute, che era in crescita. La sconfitta dell'Inter è ancora più sorprendente perché arriva in un momento in cui la sensazione era veramente quella di un'esplosione, no? Di un'esplosione tecnica che pian piano si stava verificando. Quindi, che ti devo dire? Non lo so, era successo in qualche modo anche a Palermo, però Palermo, insomma, era stata un'occasione persa, e sì, poi con le discussioni arbitrali, insomma. No, ma poi era l'abbiamo detto molte volte, no? Un processo di crescita che aveva subito dei rallentamenti, una crescita magari non regolare, non costante, ma l'idea di un percorso di crescita quest'Inter la dava. Magari può essere così, semplicemente un tonfo verticale su questo percorso di crescita. In questo momento è qualcosa di difficilmente spiegabile. Adesso so che tutti gli interisti ce l'hanno con Mazzarri, tutti quanti, nessuno escluso, e tra poco te lo dimostro quando cominceremo anche a parlare con gli ascoltatori. 800 24 00 24, traffico, poi torniamo. Non so nemmeno mi dire, no? Sembravamo un po' imbambolati, arrivavano sempre tardi anche sulle palle, quindi la colpa è di tutti e soprattutto me la prendo io. Convocati. Inter Cagliari 4-0. 1-1-1-1. Di Barbo dalla bandierina, palla dentro, salta ancora Cepitelli e la conclusione, il gol ancora Cagliari. La squadra ha fatto bene, ha cercato di giocarsela e sono contento che hanno dimostrato, che oggi si è dimostrata superiore rispetto all'Inter, che è una squadra sempre che ha delle ambizioni per giocarsi qualche cosa di importante. Inter Cagliari 4-0. 1-1-1-1. Sì, sì, so che è il mio pronostico, ho sbagliato solo di 7 gol. Cioè, ho sbagliato tutti, Sì, comunque continuo a non essere d'accordo nell'enfatizzare in questa maniera spropositata la Zeman. Insomma, Zeman umilia l'Inter, titolo del Corriere dello Sport, ad esempio, il Cagliari umilia l'Inter, e l'Inter si è umiliata un po' da sola, secondo me. Forse però, la verità è questa. Però invece no. Quante volte tu in un campionato vedi Una grande perdere in casa 4-1 con una piccola presa a pallate, come sì, io raramente, no? Però vedo una grande con un atteggiamento come quello dell'Inter, mettendoci sì dentro tutte le squadre, forse. Sai, poi è chiaro che questo è successo, sono, anche per, sai, per sono, storie, all'Inter. Sono storie da profondo niente, come scrive oggi Maurizio Crosetti su Repubblica. Ciao Maurizio. Eccoci qua, è sempre bello essere citati con i classici. Lanciamo un appello per il ritorno di Crosetti a Tikitaka, eh? Perché non viene più. Un endorsement. I poteri forti ci vogliono privare di Crosetti. L'ha detto anche Matteo Renzi, è la stessa cosa che mi ha detto ieri Matteo Renzi, la stessa roba. Poi io non riuscivo a parcheggiare la macchina e gli ho detto: Matteo, qui i poteri forti ce l'hanno con i miei parcheggi. Lui mi ha detto: lascia perdere, ho trovato chiusa la gelateria dove vado di solito, è un casino con i poteri forti. Ma noi con Confindustria reagiremo e tornerà, e Crosetti potrà tornare a Tiki Taka. Maurizio, eccolo. Il profondo, vuoi partire dal profondo niente alle spalle di quelle due o vuoi partire dal profondo niente interista? Beh, sono sinonimi in fondo, sono la stessa cosa. Anche perché il profondo niente dell'Inter, profondo ieri ovviamente, non è riuscito a colmare il profondissimo niente alle spalle di Juve-Roma, perché a un certo punto sembrava qualche settimana fa, o anche solo una settimana fa, che l'Inter potesse davvero, con quella forza d'attacco e una migliore solidità complessiva, alla faccia della solidità dopo di ieri, sembrava che potesse essere lei la squadra che non esiste, perché la terza forza è come il mostro di Loch Ness, no? Tutti dicono che esiste, tutti l'hanno visto, qualcuno l'ha fotografato, però poi in effetti non si è mai manifestato. Beh, prima o poi emergerà, se non altro per... Ma può essere, sì, la terza forza emergerà, però può essere anche, per come si diceva una volta, che arriva al traguardo quando il primo ha già fatto la doccia. Sì, e resta il fatto che è inutile accanirsi su un campionato che non esiste, di fatto non esiste. E povera Stella, fa quello che può il campionato italiano, è come un bambino a cui hanno appena insegnato a camminare, non è che può vincere il 100 metri alle Olimpiadi. Il guaio è che è lungo questo campionato e se si chiude così in fretta, dopodiché insomma che facciamo, da che mangio? Non è così. Anche per... No, ma sai perché non è così? Perché domenica una delle due non vincerà. Almeno questo. No, ma si tratta di capire quale delle due, no, Pier? Per il resto io non mi sembra che possa succedere qualcosa di diverso. Dal punto di vista del pubblico pagante neutrale, per continuare questo testa a testa e portarcelo un po' dietro. Io ho la sensazione che la Juve spesso in questi ultimi anni ha fatto la differenza negli scontri diretti in casa all'andata. Lo scorso anno è successo sia con il Napoli prima e poi anche con la Roma. Sì. E quindi cercherà di sfruttare anche quest'anno questa possibilità. È chiaro che se anche dovesse vincere la Juve domenica non è che sarebbe finito il campionato a 32 giornate dalla fine, no, questo è evidente, come non sarebbe finito se dovesse vincere la Roma, però è ovvio che insomma è abbastanza lapalissiano che il pareggio sarebbe la certificazione di questo equilibrio profondo fra squadre diverse fino a questo momento, ma tutte e due fortissime. Sì, io comunque vorrei tornare sull'argomento Inter. Ho letto ovviamente il fondo di Maurizio Crosetti, che è d'accordo con Pardo nell'enfatizzare il ruolo di Zeman in questa vittoria. Io più che altro non capisco cosa ci potesse essere nella testa dell'Inter ieri, perché ripeto, Zeman, il Cagliari, questo non accontentarsi mai, mi va bene tutto, però non capita mai di vedere una squadra che si mette lì e le prende di santa ragione senza fare una piega, senza fare un plissé. Sì, è così, l'Inter non è proprio scesa in campo. Prima di fare gli scempi era uno scempio lei, nel senso che era arresa, ferma, immobile, assente. La difesa dell'Inter è una cosa che sembra allenata da Zeman, adesso per fare una battuta, in realtà no. In realtà Zeman è un eversore della noia, della banalità, dei luoghi comuni, del piattume, quindi ci vorrebbe per contratto ogni anno una squadra delle 20 o 18, se le ridurranno prima o poi, dovrebbe essere per statuto della FIGC assegnata a Zeman, perché altrimenti che mortorio, ragazzi. Poi certo che se lì l'eversore trova l'Inter di ieri, beh, è la coppia perfetta, certo, è il matrimonio perfetto. Però insomma, io non so se sei d'accordo Maurizio, io non penso, come dicevo prima, che nessun'altra squadra di seconda fascia in quella situazione lì avrebbe vinto 4-1 con questa personalità, cioè, così come io ho sottolineato spesso, secondo me, i limiti di Zeman, è un allenatore che secondo me negli anni non si è molto rinnovato, non ha cambiato molto, si porta dietro alcune certezze, alcuni dogmi di 20 anni fa, e qualche volta questi dogmi lo condannano, e gli zemaniani, diciamo... Ma forse la sua fortuna, Pier, forse la sua fortuna, perché fa tutto parte del suo personaggio. L'altro giorno dicevamo il contrario, secondo me no, ma non bisogna essere schiavi del risultato. Io ti dico, secondo me lui può fare, come dicevo l'altro giorno, cose importanti, soprattutto con squadre di seconda fascia, perché chiaramente ha un'abitudine a lavorare sui giovani o sui giocatori un pochino meno arrivati, che secondo me possono esaltare le sue qualità di allenatore puro. Ha qualche difficoltà in più quando si scontra con personalità molto forti, giocatori magari un po' più pigri, un po' più arrivati, ai quali lui chiede in maniera forse un po' dogmatica un atteggiamento, sì, certo. I giocatori lì pensano di non dover più avere, capito? Sì, sì, sì, non sono più disposti a fare certe cose, naturalmente, però il fatto di non essere mai cambiato e essere rimasto sempre fedele a se stesso e al suo personaggio credo abbia fatto la fortuna di Zeman. A proposito sempre di profondo niente, guarda la classifica, lo spernacchiatissimo Napoli che abbiamo massacrato brutalmente per tutta la settimana scorsa, golletto con il Sassuolo, vittoria 1-0, ha un punto in meno della coppia milanese. Mau. Sì, sì, questo non depone a favore della coppia milanese. Certamente, anche perché il Milan ha perso quasi tutto quel senso di nuovo e di diverso che sembrava avere, eh? No, beh, lì si può dire che se per diventare un grande allenatore bastasse sbracciarsi e gridare molto, Inzaghi sarebbe già Conte, concedetemi almeno una piccola una cattiveria del dopopranzo, la devo dire almeno una. Sì, dai. E sul resto il Napoli, soprattutto negli ultimi minuti, per carità, comprensibili, perché c'era l'assalto e perché c'era la paura del braccino di non riuscire a portare a casa il risultato, però gli ultimi minuti sono stati qualcosa davvero di imbarazzante per il Napoli. È stato preso a pallate e la palla poi non è entrata in porta, però ha dato la misura di quanto ancora il Napoli sia lontano, soprattutto psicologicamente, dalla certezza, dalla sicurezza di sé che una squadra medio-grande deve avere. È una squadra ancora piena di dubbi, di fragilità nervose. Lo stesso Higuain non è sereno, si vede, anche se ieri ha fatto l'assist, ha fatto una cosa grande per quel gol. Insomma, il Napoli traballa ancora molto, ecco. Io credo che troverà un assetto, perché al di là, sì, la difesa qualche problema ce l'ha, però complessivamente non è possibile che sia questa roba qua il Napoli. No, certo. Al momento mi sembra un po' lontano quel giorno, però. Un assetto lo troverà anche il Milan, Anna Pardo? Il Milan è lontano, è lontano da un assetto. Si è sgonfiato, al di là degli errori individuali che pesano, perché poi Abbiati fa quell'errore lì, la partita va tutta in salita, però poi quello che mi ha colpito è stato veramente il secondo tempo del Milan, che è stato un secondo tempo povero, un secondo tempo privo proprio di intensità, anche fisicamente proprio svuotato, e quindi insomma non... c'è tanto lavoro da fare, forse la luna di miele il suo primo momento, secondo me, serviranno anche delle scelte, perché ammassare attaccanti non credo sia funzionale all'idea che Inzaghi aveva su questo Milan e all'idea che in parte abbiamo visto nelle prime due uscite, che non mi sembravano male. Questo è vero, però poi li ammassa da un lato e non usa El Shaarawy ieri. Quindi anche questa è una contraddizione. Io sinceramente non ho capito, poi magari aveva il problemino all'adduttore, ma non credo. Sì, non l'ha usato neanche lui, per la verità. Non mi risulta che avesse, ecco. Non lo so, a me sembra che comunque, a parte Menes, che ha cominciato davvero alla grande questa stagione, El Shaarawy sia quello che può dare il cambio di passo, inventare qualcosa. Ieri in quel pantano ci stava, secondo me, un suo impiego un po' più, come dire, rapido. Però, sì, anche questo è abbastanza misterioso. Questo El Shaarawy due volte in panchina è abbastanza misterioso. Non doveva essere quello risorto, rinato. Un'ultima cosa per così dire, da un giudizio molto netto, poi ne parliamo con Pierluigi e con gli ascoltatori. Da un giudizio molto netto su Tevez, senza discussione il miglior giocatore del campionato. Confermi. Finora non ci sono dubbi. La Juve gioca in 12 con lui. Lui è tutto, semplicemente tutto. Difende, attacca, fa gli assist, si propone, conclude, soffre, si è sbloccato in Champions, segna sempre, è uomo spogliatoio, è il primo ad arrivare la mattina all'allenamento. È un giocatore incredibile. Ma non era un piantagrane? Non era un casinista? Sì, ma c'era questa diceria che fosse anche un po' depresso, voleva quasi smettere quando era al City, e poi dicevano che si sarebbe sempre fatto gli affari suoi, che alla prima esclusione avrebbe messo il muso, e non è vero niente. È un giocatore anche dal punto di vista del comportamento assolutamente ineccepibile. Sì, è anche il miglior Tevez di sempre, Piero. Beh, non so se è il miglior Tevez di sempre, perché anche... Te ne ricordi uno migliore? Gli anni al Manchester United sono stati anni... pesanti dal punto di vista del rendimento. È chiaro che in una squadra così, che si sta facendo, che si sta formando, che sta diventando veramente grande anche in Europa, uno come Tevez è la differenza, mentre in quel Manchester United, che tanto per capirci è quello che ha vinto la finale di Champions League a Mosca e poi l'ha persa invece a Roma, quindi stiamo parlando in quel momento di una delle squadre più forti del mondo, Tevez era uno dei tanti, c'era Cristiano Ronaldo in quel Manchester United, c'era Gianrune, quindi è chiaro che insomma faceva un po' meno notizia, ma il giocatore è fantastico, il giocatore è incredibile, soprattutto lo spirito, un giocatore che viene dalla strada e che è impastato con lo spirito della strada, del barrio, e questo lo rende eccezionale, lo rende molto affascinante insomma. Maurizio, sarà importante il riflesso della Champions League per la Juventus, perché quella è una partita che per la prima volta davvero misurerà la Juve. Sì, anche perché l'unico vero limite della Juve di Conte, straripante in Italia in 3 anni, è stato proprio la Champions, ma soprattutto l'approccio, il timore, i troppi imbarazzi in campo, no? È lì che si vede la svolta. Io credo che la Juve sia in questo senso cresciuta. È chiaro che il Calderone è uno stadio molto impegnativo, un avversario, la rivelazione della scorsa stagione, sta andando molto bene anche adesso, seppure sia un po' cambiato. Tra l'altro Diego Godin è l'ultimo giocatore, gli juventini si tocchino quello che vogliono, ad aver segnato in una partita ufficiale a Buffon in Brasile, in quello sventuratissimo Italia-Uruguay. Però io credo proprio che vedremo una Juve padrona di sé, non so se della partita, ma certamente una Juve che non andrà a ballare al Calderon. Grazie. Io ho belle sensazioni da tutte e due le italiane. Poi io pure. Io pure, ma adesso ne parliamo. Adesso salutiamo Crosetti e poi continuiamo a parlare io e te, Pier, insieme agli ascoltatori. Ma tutti convocati. Franco Biontanini, il nostro autore, Roberto Scaltritti in regia, Claudia Schiattoni in redazione, Pardo collegato con me, Domenico da Prato al telefono, 800 24 00 24, numero verde. Domenico. Sì, buongiorno, grazie per avermi convocato. A lei, grazie. Senta, io l'anno scorso, io non ho premio, ho avuto l'occasione di vedere da un amico 2 partite dell'Inter e ho avuto la sensazione che il nostro allenatore non sappia cambiare le situazioni in campo. Cioè, se c'è se l'Inter in quel momento ha bisogno di un certo cambio, di una certa variazione di gioco. Cioè, lei dice che Mazzarri non è bravo a leggere le partite, questo che intende? Secondo me sì, perché anche sull'1-1 ieri, cioè, vista la situazione dell'espulsione di Nagatomo, no? Magari cerchi di coprirti un po' e magari cerchi di ripartire in contropiede. Tanto il Cagliari avrebbe attaccato comunque. Non lo so, l'anno scorso io non mi ricordo a quanti punti l'Inter è finita di distacco. Beh, parecchi, non esattamente non lo ricordo nemmeno io, erano talmente tanti che è quasi inutile contarli, rispetto ovviamente a chi ha vinto lo scudetto o anche alla Roma che ha lottato fino all'ultimo. No, non sono convinto che Mazzarri non sia bravo a leggere le partite. Certamente non è stato bravo nel preparare quella di ieri, si è assunto tutte le colpe, ma raramente capita di vedere una squadra di Mazzarri immobile nella reazione in quella maniera. Pierluigi. Sì, te hai detto tutto tu. Ma credi che abbia dei limiti nella lettura delle partite come allenatore? È un'ipotesi, però insomma nello specifico ieri ha fatto mea culpa, ha parlato di una difficoltà soprattutto dal punto di vista fisico. Sì. È stato sicuramente condizionato agli episodi, insomma la partita di Nagatomo è stata veramente l'autolesionismo fatta prestazione. Secondo me è una sconfitta abbastanza clamorosa che fa testo fino a un certo punto. Oggi l'Inter ha 5 punti in meno rispetto a un anno fa, dopo 5 giornate, ma secondo me potrebbe arrivare più avanti. Antonio, provincia di Venezia, buongiorno. Buongiorno, da Chioggia. Salve, da Chioggia, meraviglioso, da Chioggia. Dica. Grazie della convocazione. Marami, allora, Alex e Zapata sono peggio di Bonucci, Chiellini e Barzagli. Secondo me sì, scrivo un ascoltatore. Secondo me sono peggio di Bonucci, Chiellini e Barzagli. O meglio, se devo scegliere una difesa, mi prendo quella Bonucci, Chiellini e Barzagli e non quell'altra. E volendo mi prendo anche Manolas, che a me piace un sacco. Però l'ha preso da Roma e non il Milan. Dica. Allora, io sono milanista da 40 anni. Io l'avevo immaginato, quindi l'ho buttata lì. Sono vivente da 40 anni, ma sono anche zemaniano. Sì. Immagini che quando c'era Zeman al Foggia, andavamo con gli amici a vedere le partite del Foggia anche qui al nord. Al nord? Perché, sì, perché piaceva il gioco che faceva, era assolutamente innovativo. Sì, anch'io andavo a vedere Maradona, andavo a vedere Van Basten in giro, no? Se capitava anche, queste perversioni ce le abbiamo avute un po' tutti. Il gioco del calcio è una gioia, è un gioco. Sì. Poi il business e quant'altro. La scorsa settimana, sento molto la tua trasmissione perché viaggio, quindi sì, l'ascolto. Tu eri molto critico con Zeman, gli Scagliari poverino lì a un punto, già tutti pensavano che saltava, eccetera. Sì, ma non lo pensavo io, lo pensavano in molti. Lo pensavano in molti, ma io adesso comunque. Invece, chiaramente chi sa un po' di Zeman. E adesso fanfare e tarantelle, sì, lo sappiamo. 4-1 perché l'Inter, la pochezza, la scarsezza che ha avuto nel giocare la partita. Ti è visto, i nomi sono quelli che conosci, sì, da una parte milionari, dall'altra i ragazzi, e io credo che questo in fin dei conti sia il vero, il bel gioco che... Beh, vediamo il prossimo giro, vediamo il prossimo giro. A me non sembra neanche così scarso il Cagliari, comunque, no, volendo proprio dirla tutta, non mi sembra proprio una squadra di scarponi, mi sembra una discreta squadra. Rispetto all'anno fa ha perso Piniglia, ha perso Nainggolan, ha perso Story, ha perso dei giocatori. Con questo tipo di squadra è chiaro che Zeman diventa una scommessa, un rischio calcolato, nel senso che comunque può essere l'allenatore giusto per dare vivacità, per dare energia. Il punto su Zeman per me è sempre lo stesso, cioè io amo Zeman, ma fatico a trovarmi d'accordo con alcuni zemaniani, un po' come fra animali e animalisti certe volte, nel senso che poi nel momento nel quale Zeman c'è chi lo difende a prescindere, certo, ma è un simbolo, ma per questo che io ti ho detto prima, ma è un'icona, è per questo che Zeman comunque una panchina l'ha sempre trovata, è questo che dico io, non sono uno zemaniano, non lo sono mai stato, non cambio posizione, certamente è divertente, le squadre di Zeman sono divertenti da vedere giocare, il Pescara era divertentissimo e ha pure vinto il campionato di Serie B, eccetera eccetera eccetera, però la fortuna di Zeman è stata proprio quella di rimanere fedele a se stesso anche nell'errore, perché su questo si è costruito un personaggio e su questo personaggio ha sempre trovato dei contratti anche nei tempi grami, quindi anche dopo dei fallimenti. Vincenzo Salerno, buongiorno. Zemaniano, salve, convinto dottore. Anche lui, salve, dica. Complimenti per la trasmissione, grazie. Io niente, sarò brevissimo, mi riallaccio al discorso fatto in precedenza sull'Inter. Non solo l'Inter ha dei punti in meno rispetto all'anno scorso, ma attenzione, ha anche una rosa migliore rispetto all'anno scorso, Io quindi mi riallaccio al discorso che probabilmente Mazzarri ha dei limiti e probabilmente non può allenare questa squadra. Ma aspettiamo un attimo, però. Aspettiamo un attimo. Anche qui continuo a credere abbastanza nell'Inter. Cioè, non è che dopo il 4-1 di ieri abbiamo passato una settimana a dire la terza forza del campionato. Lo sappiamo, insomma, no? È quella che ha più margini di crescita, più margini di miglioramento. Io queste cose continuo a pensare anche dopo il 4-1, non ho smesso di pensare questo, mi faccio delle domande su come sia stato possibile giocare in quella maniera, presentarsi in quella maniera, mi viene quasi da pensare ad un peccato enorme di presunzione. Senti Pierluigi, invece che lettura mi dai del sabato della Juventus e della Roma? Eccezionale la forza della Juve, secondo me, dimostrato una volta in più, questa volta partiva dopo, quindi poteva avere anche un po' di pressione addosso, ha dimostrato di essere veramente una squadra superiore, e la Roma ha fatto un grande secondo tempo, un primo tempo non bellissimo, ma un secondo tempo di grande pazienza, di grande intelligenza, di grande saggezza tattica. Il primo gol è abbastanza casuale. Sì. Però noti come siano sempre a risolvere i problemi della Roma, siano colpi dei giocatori di classe. Questo, è stato con Pjanic, inizio, è stato con, certo, Florenzi, è stato con Destro. La Roma ha tanti giocatori di classe, soffre moltissimo queste partite, come quella con il Verona. E poi sarà stato casuale finché vuoi, però Florenzi di nuovo ha trovato un grande gol. Guarda, a me sembra così, occhio e croce, che la Juve abbia più facilità nel risolvere le partite con le squadre bloccate. Questo potrebbe darle un vantaggio in un percorso da 38 partite, dove spesso trovi delle avversarie che sono bloccate e devi riuscire a risolverla. Se guardiamo il cammino fino a questo momento, sicuramente la Roma ha avuto un paio di situazioni, soprattutto a Parma, ma anche in casa col Verona, di partite non facili, mentre la Juve forse soltanto a Milano contro il Milan, perché poi contro il Chievo ha passeggiato, al di là dell'occasione per Maxi Lopez, ma poteva fare 8 gol. Sì. Con l'Udinese non ha avuto grandi problemi. Insomma, mi sembra che la Juve abbia un passo un pochino più sicuro fino a questo momento, ma sono dettagli. Però ecco, invece, anche perché sono squadre diretto, diverse, eh? Nello scontro diretto non lo so. Nello scontro diretto francamente non lo so, perché la Roma mi sembra diventare la tosta da questo punto di vista. Ma devono, vediamo come passano, però vediamo anche come passano attraverso la settimana di Champions, perché io credo che questa possa fare tutta la differenza del mondo, e continuo a pensare che la partita del Calderon sarà la prima vera unità di misura della Juventus, per un sacco di circostanze. Per la Roma un po' meno, ma la partita di Manchester un po' meno, perché la Roma, sai, in questo girone è partita benissimo, però non è così opprimente l'idea della Champions per la Roma come la è per la Juventus. Sicuramente, anzi, c'è una scuola di pensiero a Roma, dopo il girone ne abbiamo già parlato, che quasi aveva paura della Champions e della possibilità che la Champions potesse in qualche modo distrarre una squadra costruita quest'anno con l'obiettivo di vincere il campionato. Ed è una teoria, secondo me, che ha una sua suggestione. Se non che, però, ti dico la verità, l'esordio col CSKA e le caratteristiche di questa squadra mi fanno pensare che sia anche una squadra capace di poter far bene in Europa. Tanto in Europa lo vedi subito, cioè andare avanti fino a dicembre, poi se passi quel girone allora ti puoi veramente divertire. Poi sì, tutti questi discorsi poi quello che arriva, poi quello che viene, poi quello che viene, il giocatore parli ti dice che c'è la partita, che vuole andare avanti, che non fa calcoli. Ma è chiaro, questo è chiaro, però ripeto, la Champions per la Roma non è un'ossessione. 45 minuti di programma, non ho ancora sentito una volta, e sono abbastanza arrabbiato per questo, la voce del presidente che ieri ha vinto il derby di Genova, ragazzi. Sera tiki-taka, eh? Beh, cioè, però voglio sentirlo anche, adesso. Andiamo, dopo il traffico, certo. Voglio sentire Ferrero. Certo, andiamo. Tutti convocati. Ciao Ilaria, un po' che la palla a Matano, se ne ha messa. Ho voluto unire due forze che sono simili, cinema, calcio, cultura. E questo è il sale della vita. Forza Sampdoria, ne la faccio più. A voi, studio. Ciao, studio. Ciao. Il primo derby della stagione l'ha vinto la Samp. Va Gabbiadini verso la porta, non tocca nessuno, la palla in rete, la Sampdoria in vantaggio con la punizione di Gabbiadini, 1-0, è un quarto d'ora dalla fine. Aspetta, che notte da Marzelli, aspetta. Allora, mi chiamo Ferrero, cosa vuole sapere? Ha sentito il presidente Preziosi, vi siete scambiati qualche sms, qualche messaggio? No, sms no, perché no. Io ho un telefonino del 1960. Ah, come Boban, siete uguali. Per cui non sono capace. Ci però siamo... Abbiamo parlato di gioielli con Preziosi. Ma sì, E anche dello stadio, perché so che... lo stadio è un gioiello, che banale, domanda banale. Ah, facciamo solo domande banali, la salutiamo. No. Ci tengo a dire che voi siete sale del calcio. Buonasera presidente, ci racconta molto più banalmente le sue emozioni, visto che è il primo derby, che non so se se le immaginasse così l'atmosfera di Marassi il giorno di Genoa Samp. Ma lei come se la immaginava? Io la prima volta, non così. E allora siamo in due. Siamo in due. Sì, e allora come facciamo? Diciamo che la vita è molto bella e questa sera è una bella giornata di sport. Aspetta che lui mi sta spostando. È una bella giornata di sport e lo sport, il calcio nel derby, lo sentono un po' di più, ma comunque è una partita importante per la città e che vinca l'Unione. Se in mente ha già pensato a una possibile esultanza in caso di vittoria del suo primo derby? E questa è una domanda molto banale. Risultanza che vuol dire? Perché non sono un prete che esulto, sono un presidente di una squadra. E volevo salutare l'amico, gli volevo dire che c'è l'ardito, c'ho il mosquito e la vorrei portare a Ostia Lido. Ciao d'amico! Adesso sto molto meglio, ragazzi. Adesso finalmente sto bene. Ma anche Pardo credo che dopo questo si sia risollevato il morale. Io mi sono già fatto due telefonate stamattina per, appunto, per concordare l'intervento di stasera. Dimmi qualcosa. Personaggio. Ma lei chi è? Chi è lei? Personaggio straordinario, dai. Lei chi è? Personaggio straordinario, poi è chiaro che si può avere dei dubbi sulla sua tenuta come presidente della squadra di calcio, però insomma è un personaggio che nel parlarci ti dice delle cose sicuramente non banali. Certamente. È difficile. Ma è un valore aggiunto del nostro calcio, ma lo ripetiamo fin dal primo minuto, dal minuto zero, questo è indubbio. Lei chi è? Chi è? Con chi parlo? Fabio da Roma, buongiorno. Buongiorno a voi. Una domanda: non è che la preparazione dei giocatori della Roma sia stata portata un po' troppo avanti, viste le rotture di tutti questi giocatori? Sia stata un po' estremizzata? Penso di sì, ecco. Non lo so. Pardo, cosa dici? Che non lo sappiamo. Non lo possiamo sapere. C'è una componente di sfiga e c'è una componente che può essere analizzata da un altro punto di vista, no? Sì. No, ma secondo me sicuramente la Roma quest'anno ha dovuto cambiare delle cose perché su tre fronti, ma ha anche cambiato in maniera clamorosa la profondità della rosa, cioè si è attrezzata dal punto di vista numerico, quantitativo, per poter reggere le tre competizioni, al punto che ha pagato già con parecchi infortuni rispetto all'anno scorso, ma quasi nessuno se ne è accorto, perché comunque è riuscita sempre a trovare delle soluzioni. E poi sulla stagione i carichi di lavoro non li sappiamo, probabilmente non lo sanno nemmeno gli allenatori, nel senso che poi il modo nel quale risponderanno i giocatori al lavoro fisico non mi pare neanche l'unica squadra che ha avuto dei problemi con gli infortunati, mi sembra un male abbastanza diffuso, no? La stessa Juventus ha perso Vidal, ha perso Pirlo, ha perso Morata per questioni diverse, infortuni di tipo diverso, però un po' tutte in questa stagione, è stato uno dei temi dei giorni scorsi, hanno sofferto questo abbrivio, questi primi passi di campionato. Giuseppe Milano, buongiorno. Buongiorno, una cosa velocissima, sì. Sono interista, sono equilibrato, non contesto l'allenatore perché all'Inter ci sono colpe ben più pesanti negli anni precedenti, però Mazzarri qualche responsabilità se ne deve cominciare a prendere. Beh, ma lo ha fatto, no? Si posso finire velocemente, una proprio in dettaglio, difesa Vidic, difesa 4 per una vita, difesa 3, Hernanes l'ha acquistato lui, l'ha voluto lui, è costato un pacco di soldi ma non è mai stato nessuno che abbia fatto la differenza, Hernanes Kovacic insieme, difficile, sono d'accordo. Ultima, e vi saluto, vi ringrazio, condizione fisica patetica, perché reputo una squadra da quarto posto, e questo non è strano, secondo me da terzo posto, e questo è strano perché sulla condizione fisica Mazzarri non ha mai deluso negli anni di Napoli eccetera, è stato anche uno, ma a proposito di infortuni, bravo a preservare i giocatori dagli infortuni, quindi questo non me lo spiego. Sugli altri appunti, Kovacic, Hernanes, secondo me una di troppo, sono d'accordo è la grande sfida secondo me dell'Inter di quest'anno. Riuscire a far coesistere quei due, perché se riesci a far giocare quei due insieme hai grande qualità, però è chiaro che c'è bisogno di qualcuno che Medel sicuramente, Vila, che ti dia energia e sostegno, perché altrimenti balli, e quindi, però quello secondo me è il tema in casa Inter praticamente parlando, così come secondo me il tema in casa Genoa è invece la coesistenza fra Pinigli e Matri. Sì. Sono un valore aggiunto enorme, ma è chiaro che non è facile farli giocare insieme. Quindi no, ma su Mazzarri, però io ti dico, ieri è stato un terremoto. Cioè, noi fino ad oggi avevamo parlato, avevamo visto sempre la squadra. Senti, una curiosità, Pier, ma secondo te invece Icardi e Osvaldo sì o no? Secondo me anche quella può essere una scommessa un po' difficile. È un po' difficile, certo. No? Perché mi sembra che Palacio abbia dato. Giocare con due attaccanti e in più con Hernanes e Kovacic in mezzo al campo significa che tu hai una squadra che rischia di sbilanciarsi. E allora hai bisogno del miglior Medel, del miglior Vila. Non è facile, però a me, io rimango dell'idea che l'Inter quest'anno abbia un progetto, sì. E ci sia una strada, una direzione. Certo, la partita di ieri rischia di incasinare tutto, anche perché adesso c'è Firenze fuori casa, c'è l'Europa League prima, insomma. Mazzarri, a differenza di Inzaghi, non ha la luna di miele, non ha più credito. I messaggi che arrivavano in radio erano i tifosi dell'Inter che chiedevano la testa di Mazzarri alla prima sconfitta stagionale, quindi questo è il clima. Certo. Pier, grazie. Ciao. Ci vediamo stasera, ti vedo stasera. Ora? 23:10, non male. Marco Treviso, ce la facciamo? Non ce la facciamo perché abbiamo Bad Corner, abbiamo GR, poi abbiamo Marco da Treviso. Le chiedo un attimo di pazienza, sentiamo insieme tutto questo e poi chiacchieriamo. 800240024 è il numero verde. Quote e pronostici. Si chiude oggi la quinta giornata di Serie A con due posticipi alle 19 l'Udinese di Stramaccioni sfida la Parma di Cassano. I due furono protagonisti qualche stagione fa all'Inter, salvo poi discutere fino a rompere il loro rapporto, che era partito invece sotto quel motto "strama bene bene" che il barese aveva pronunciato durante un incontro tra i due. Vediamo dunque le quote SNAI per questa gara. L'1, la vittoria dell'Udinese, è quotata a 2,20, l'X è a 3,30, il 2 invece con la vittoria del Parma è quotata a 3,30. È impossibile anche indovinare il nome del primo marcatore di questa partita. L'Udinese spicca i nomi di Di Natale, quotato 4, e Terò, quotato 7, nel Parma quelli di Cassano, quotato 7, Belfodil, Ghezzal e Coda sono quotati 10. Alle 21 al Barbera c'è Palermo-Lazio, l'1 la vittoria del Rosanero è quotata 2,90, l'X è a 3,25, il 2 invece è quotato 2,45. Alle 20:30 in campo anche la Serie B con la sfida tra Virtus Lanciano e Bari, l'1 la vittoria dei padroni di casa è quotata 2,80, l'X è a 3, il 2 invece è quotato 2,70. Questa era l'ultima delle quote SNAI di oggi, noi ci risentiamo domani. Convocati. Prende velocità Marilungo, punta l'area, attacca Rami, lo insegue anche Poli, palla dentro, la tocca Bianchi e poi Succi, porta il vantaggio in Cesena e completa la giornata memorabile. Davide Succi che torna in Serie A 4 anni e mezzo dopo l'ultima volta. Ancora Onda a battere il calcio d'angolo, questa volta è più lunga la parabola, prova a staccare, ci arriva Rami per il pareggio del Milan. Il colpo di testa di Adil che va molto in alto. Marco da Treviso, grazie per l'attesa. Buongiorno a tutti. Dica. Senta, volevo parlare di Mazzarri. Sì. Allora, vieni in conferenza stampa nel dopopartita a dire che hai giocatori cotti e stanchi. Siamo a settembre, hanno giocato 5 partite di campionato, 5. In coppa hanno giocato contro il dopolavoro ferroviario di non so che paese. Giocato con Niepro. I giocatori stanchi. Allora, o i preparatori atletici dell'Inter hanno i cricetti al posto del cervello, o c'è qualcosa che non parla. Il campionato finisce a maggio, siamo a settembre. Sì. Può essere che Mazzarri ovviamente penso intendesse il fatto che i carichi di lavoro sono stati pesanti e la squadra in questo momento ha bisogno di rifiatare in una normale, in una programmazione che può essere anche fisiologica. Non la intendo come ho già spremuto tutto quello che potevo dalla squadra, perché sennò condivido il discorso dei cricetti. Io voglio chiedere invece a Corrado Tedeschi, dimmi la verità. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio, dimmi la verità. Quando Gabbiadini l'ha messa, tu hai fatto cosa? Ma sai, io vivendo a Milano, l'ho visto a Milano, quindi faccio cose senza senso, ma a Milano, e quindi la gente mi guarda come se fossi uno squilibrato. E quindi no, niente, sono saltato in mutande qua sotterrato. Ma roba da niente, sono cose normali. Cose normali. Solite cose. Cose normali. E poi hai goduto ancora di più quando Gasperini ha detto: ah, però fallo ci stava, non, ma, non regolare. L'ho trovato, perché bisogna saper vincere, bisogna anche saper perdere. Insomma, era un derby da 0-0, è andata così, ma non attaccarsi al fuorigioco mi sembra veramente una robetta un pochettino così. Solito derby, come ne abbiamo visti moltissimi, no? di Genova, brutto. Sinisa Mihajlovic l'ha definito un derby maschio. Derby femmine a Genova ne ho visti mai. Tra l'altro Sinisa aveva pescato alla vigilia addirittura la citazione di Che Guevara. Tra lui e Ferrero siete la squadra più mediatica d'Italia. No. In maniera diversa. Diversa. Io umilmente do un consiglio a Ferrero. Sì. Ecco, magari di farsi scrivere i testi delle interviste da qualcuno, perché vabbè che è il suo modo surreale. Poi sai, d'altro canto finora non ha sbagliato niente, per cui nessuno può dirgli niente. Però ecco, se i tifosi sono molto felici, e quando tutto va bene, va bene tutto. Quando le cose non vanno proprio benissimo, eccetera, allora sai, la simpatia, il fatto di essere sorella, quello passa in secondo piano. Certamente. Quindi, certamente. Comunque, ma per adesso comincerei a fargli scrivere i testi da qualcuno. Sì, poi bisogna vedere se rilegge, perché sai, possono anche scriverli, poi magari butta via il foglio, lo perde, eccetera, eccetera. No, è chiaro che io ho anche ascoltatori che dicono: ricordo presidente Mantovani, vincitore con la Sampdoria, grande signore, educazione, ma questo, ma nessuno, ovviamente è tutto vero, è tutto sacrosanto. Ferrero è un personaggio diverso. Io posso dire che a me diverte, perché è onestamente, è oggettivamente divertente qua nelle sue uscite. È chiaro che non ha nulla a che vedere con il presidente Mantovani, ma sono tutte banalità queste. Senti, invece da esterno, che idea ti sei fatto del nuovo psicodramma Inter, Corrado Tedeschi? Bah. Sembra di rivedere un copione già visto, non so come mai. Sì, eh? Beh, un po' sì, un po' sì. Effettivamente quello che diceva l'amico che ha chiamato prima, sentir parlare di squadra bollita, di stanchezza, dall'allenatore alla quinta di campionato, fa un po' strano, fa un po' insomma, c'è qualcosa di serio, se questo è qualcosa di serio, per cui una partita storta può succedere. È quello che dico anch'io, una partita storta può succedere. Mazzarri è un buon allenatore, non è diventato improvvisamente un bidone totale. Poi possiamo discutere sulla adeguatezza di Mazzarri nel guidare una grande squadra, o possiamo discutere se l'Inter è una grande squadra al momento. Però mi sembra ci siano, intorno all'Inter c'è sempre questa alea di estremismo totale. C'è un pubblico difficilissimo a Milano, guarda, veramente difficilissimo. Un pubblico che non perdona niente, un pubblico impietoso, fischiano dopo 5 minuti, insomma, è difficilissimo l'ambiente, ci vuole proprio anche psicologicamente della gente veramente tostissima. Mazzarri mi sembra abbastanza tosto da quel punto di vista, sì. Però è dura, è durissima. Io guardavo la classifica oggi con un po' di vertigini, no? Terza, tanto la terza forza del campionato è chiaramente la Sampdoria, no? Sì. E ti dico anche, adesso poi spero di non essere smentito subito, cioè, che squadre forti come la Sampdoria, anche che è una sorpresa, non ne vedo molto più forti, sinceramente. Per cui Sampdoria, secondo me, se continua con questo piglio, a parte che abbiamo trovato dei giocatori, questo Romagnoli qui che sarà il prossimo centrale, secondo me, della nazionale per 10 anni. Sì. Con uno di 19 anni che gioca con quella personalità, io raramente. Sì, aspetterei un pelo però a Corrado, perché la stessa cosa, io avrei scommesso la casa su Santon, no? Per come giocava, per la personalità che aveva, eccetera. Anche De Sciglio, che è un giocatore che mi piace da morire, mi sembra un po' in fase calante, quindi quei ragazzini, cioè, salgono velocemente, poi bisogna vedere, vanno in altalena e poi bisogna vedere come si stabilizzano. Anche perché noi lo stiamo preparando per la Roma. Certamente. Purtroppo. Certamente. Comunque noto una grande euforia da tifoso vero, e questo mi fa piacere, caro Corrado. Sì, ma guarda, ti dico la verità, l'euforia, certo, ma l'euforia è vedere la squadra in quella posizione di classifica, era veramente anni che non si vede. Imbattuta, sola alle spalle di Juventus e Roma, l'unica in doppia cifra con Juventus e Roma. ho un sacco di suggestioni. Grazie Corrado. Grazie a te, a presto. Abbracci. Ciao. Ciao. Partita difficile come tutti i derby, e qua volevo fare complimenti a tutte e due le tifoserie per il spettacolo sui spalti e anche complimenti a tutti i diretti interessati, perché è stato un bel derby maschio, ma senza, con cattiveria sportiva, ma senza niente di più, perciò non è stata bella come magari altre partite, però quando si vince diventa più bella di quello che era. Pur di non farmi vedere i mondiali di volley, mi spedisce da tutt'altra parte. Mi ha mandato qua a vedere la MotoGP. Due giri, Valentino è caduto. Dimmi te, io adesso chi faccio il tifo. Aspetta, te la faccio sentire da qua. Dai, grandi che lo freghiamo, vai. Bene, Cruz, prende questo pallone. Vargas lo va a attaccare, arriva il muro dell'Italia, ma li alzano ancora quella palla. Sì. Dai, 8-14, dai, fate anche il 15esimo. Brave, avete vinto sta partita. Brave, Dominicane. La Repubblica Dominicana vince il terzo tie-break e... Voi, Carlo Gente Pardo, adesso a far festa. Brave, ma noi non ci interessa perché siamo alla seconda fase. Siamo alla seconda fase e ripartiamo da qui, caro Carlo. Mercoledì 1 ottobre, prima sfida. Mamma mia, sto casino delle moto. Carlo, non ti sopporto più. Mi vuoi andare a vedere una partita di volley? Comincia la seconda fase, mercoledì Italia-Azerbaigian. E lo sai che il CT Bonita è molto soddisfatto perché una sconfitta al tie break contro la Repubblica Dominicana ci sta. Infatti, Bonita ha detto un punto guadagnato. E sai che voto ha dato la nostra squadra per la prima fase? Senti un po'. Beh sì, io devo fare i complimenti alla Repubblica Dominicana perché abbiamo detto. Non ha sbagliato una battuta, forse tre in tutta la partita, mettendoci sempre in difficoltà. È vero che noi qualcosina in più dovevamo fare, però non è stato semplice. Per un 7.5 ho dovuto ricevere a 2 e poi insomma le energie erano quelle che erano. Abbiamo provato, forse è un punto guadagnato, non so se la possiamo mettere così, ma mi viene da dire questo. Secondo me abbiamo tirato fuori anche oggi, non è che tirare fuori significa sempre vincere. Esatto. Credo che dopo il primo set e largamente nel secondo essere stati sotto, non so quante squadre avrebbero trovato sempre la forza per giocare. Siamo arrivati al tie break forse con un pochino di stanchezza, diciamo, certo. Anche fisica, anche mentale, non potevamo giocarci tutte le nostre carte, è andata così, andiamo avanti. Allora, punto primo, a veder volley non ci vai. Primo, piantanina, non ci vai, te lo scordi. Punto secondo, brave, hanno perso, ben brave. Voto alto perché hanno perso contro Repubblica Dominicana, che beh, è una buona squadra, ma perso, cioè non si può dire, ok, che figata, abbiamo perso, voto 7. Terzo, Mazzari dice, siamo stanchi? No, lo dice Bonita, va bene, ok. È vero, hanno giocato tre partite una dietro l'altra, un girone di mondiali, però se sono stanche adesso, alla fine del mondiale che cosa sono? Ci sta tutto, anche il mucchio selvaggio. Marco da Genova, sono disperato io. Marco, buongiorno. Buongiorno. Tutti, sono in macchina, sto andando verso Milano come Corrado, sono un tifoso della Sampdoria che lavora a Milano e quindi è un po'... Ah. È uscito sul balcone in mutande, però, anche lei? Sì, però di Genova, perché ieri ero a casa. Sì. E cosa ha fatto quando Gabbiadini l'ha messa? Me lo dica. Era contento, lo so, ma cosa mi dica che cosa ha fatto. Ha urlato, ecco. Un urlo composto. In un quartiere molto rosso-blu, quindi è stato un urlo liberatorio. Sì, un urlo nel silenzio. Un urlo nel silenzio. Meraviglioso. Un urlo nel silenzio. Meraviglioso. Dica. Sì, volevo semplicemente chiedere un po', da un punto di vista anche vostro, tecnico, professionale, al di là di tutti i discorsi sul nostro presidente e sulla sua rappresentazione mediatica, però ecco, una valutazione invece del tasso tecnico e potenziale di questa squadra, che è fatta di giovani e di un ottimo allenatore secondo me. Sì. Come diceva Corrado Tedesco, secondo me può essere anche una squadra che possa dare qualche sorpresa a questo campionato, ovviamente. Beh, le sta dando. No, allora, Marco, le sorprese le sta dando, chiaramente ne sta confezionando una grossa. Che possa arrivare terza, sinceramente, la vedo dura. È da molto tempo che diciamo, già dalla. Dal momento in cui è stata costruita questa squadra, che mi sembra siano un po' tutti d'accordo nel considerare la Sampdoria una squadra per la sua dimensione eccellente, quindi non credo che possa arrivare terza, perché credo che alla fine emergeranno altri valori. Però certamente la Sampdoria può stare dove è stato detto all'inizio, cioè nella metà sinistra della classifica, quella metà sinistra che vuole anche il Genoa, che vedo però un po' meno attrezzato rispetto alla Doria blu cerchiata. Io credo che se fossi un tifoso della Sampdoria vorrei godermi fino in fondo questo settembre-ottobre dolcissimo, poi vada come vada, terzo posto mi sembra un po' troppa roba, sinceramente. Oh, Graziano Rossi, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Come stai, Graziano? Insomma, come sto? Hai preso un bello spavento, di la verità. Preso un bello spavento, sì. Notizie di Valentino? Ma per fortuna un leggero mal di testa, un po' di mal di testa è l'unica cosa che si è portato appresso dalla botta. E quindi sembra che le cose, per fortuna, vadano bene. Sì, è stata una corsa stranissima quella di ieri, e per la prima volta ho visto davvero Marquez commettere un gravissimo errore di presunzione. Sei d'accordo o no? Assolutamente sì, però voglio dire, se lo può permettere, certamente se lo può anche permettere, però insomma queste ultime due gare probabilmente lui ha capito che ormai il suo campionato è vinto, ma non è così facile, probabilmente non lo sarà più i prossimi anni così facile come quest'anno, ecco, perché lui quest'anno è stato meraviglioso, straordinario, però forse ha goduto del fattore sorpresa, diciamo, ecco. Perché nessuno si aspettava un pilota così veloce, sempre così concreto. Beh, d'altra parte, se la moto è la migliore che c'è, anche se la Yamaha si è avvicinata tantissimo, se il termine di paragone è Pedrosa, possiamo vedere qual è la distanza, no? tra Marquez e tutti gli altri. Anche se, ripeto, ieri ha voluto fare il fenomeno a tutti i costi, provare a rimanere in piedi su una strada che era diventata di vetro, e giustamente si è sdraiato perché non può andare sempre tutto bene, perché non è stato qualcosa di davvero eccessivo, non sarebbe riuscito a terminare la corsa se era capito subito. Certo. Senti, ma dimmi ancora una cosa, mi racconti quella giornata di Arrench dopo Misano? Dove c'era anche Marquez, è diventata leggenda. Allora, Marquez è stato molto bravo, e comunque non avevamo dubbi su questo, nel senso che lui si allena in Spagna con queste moto e in questo tipo di fondo, no? Poi aveva una Honda che andava come un missile, sì. Lui in salita è leggerissimo, quindi ha fatto il miglior tempo di qualche decimo, credo 3 o 4 decimi, però ha perso l'americana, che è la sfida che poi alla fine della giornata fanno sempre tutti quelli che ci sono. L'americana, sai come funziona? Sì, certo. Che gli ultimi due rimangono fuori, e quella l'ha vinta Valentino, quindi insomma si sono 1-1, diciamo che si sono equivalenti. Però se consideriamo che Marquez era la prima volta che ci veniva, naturalmente tanto di cappello, lui è assolutamente bravo a guidare le moto, qualsiasi tipo di moto, quali esse siano. Sì, e poi è uno che ho l'impressione che anche se viene lì a giocare, a divertirsi, vuole vincere. Vuole vincere a qualunque costo. Ci sono qui a Reds, ce ne sono pochi che sono lì a giocare a divertirsi. Che sono lì a giocare a biliardo. Considera che Marquez si è portato dietro le sospensioni, voglio dire, oltre a due meccanici della Honda. No, ma non c'è nessuno, anche gli altri sono così, non ti preoccupare, non c'è nessuno che va lì a giocare. Un'ultima cosa, ha smesso di giocare anche Romanone Fenati, grande ieri nella la vittoria di ieri, anche se io ti posso dire una cosa, lui è il pilota che a me piace di più, è quello che mi diverte di più quando guida bene. Lui è secondo me molto molto bravo. Ancora non completamente costante, ecco. Sì, non... la costanza è una cosa che si impara, la velocità no, lui la velocità ne ha molta, ma è il pilota per cui faccio più tifo, ecco, quindi sono molto contento. Sì, poi Coccodrillo Miller ieri ha provato e magari ci riesce a buttare via il titolo mondiale, ma vabbè, sono fatti loro. Io spero che non ti riesca, perché sono anch'io, messa, ma anch'io, però non puoi fare una manovra di quel tipo al giro numero 3 per attaccare Marquez Junior. Secondo me devi correre in un'altra maniera, perché se butti lì al titolo mondiale, come rischia di fare, è una roba che ti resta dentro, ho paura. Sì, io speriamo che non succeda. Grazie. Saluti Graziano. Buona giornata, ragazzi. Ciao, un abbraccio. Grazie. Ciao Graziano Rossi. Ciao. Pietro Milano, buongiorno. Eccomi, buongiorno. La mi dica. Volevo dirvi che a me la partita di ieri sera è piaciuta tantissimo. Il derby. Mi sono divertito, mi è sembrato di vedere sette vecchie partite di Serie C di 20 anni fa. Ho presente. Inglese pizzighettone. Ah. Però con qualcuno che gioca straordinariamente a calcio. Uno della Samp, Romagnoli. E un paio del Genoa di cui non ricordo il nome, che secondo me sono buonissimi. Quindi tutti quei commenti un po' sussiegosi dopo, io per la prima volta non mi sono addormentato. No, ma è stata una partita, come dice Sinisa Mihajlovic, una partita molto maschia, ma è vero, ma il derby di Genova è sempre così, cioè, non ne ho mai visti di derby di Genova partite femmine, perché se le danno di santa ragione. Poi è chiaro che insomma è un certamente non è Barcellona Real Madrid, è un tipo di calcio diverso, ma io sono anche abbastanza d'accordo con lei. Pure a me queste partite intrigano, pure a me piacciono. Molta adrenalina, qualche buon giocatore, ma non l'abbiamo scoperto ieri sera in mezzo al fiume dell'adrenalina, e siamo qui a dire che il Genoa, ma soprattutto la Sampdoria, sono due squadre di buon livello. 800 24 00 24, ci fermiamo per la borsa, poi di nuovo insieme. Rossi largo, fuori Valentino Rossi, fuori Valentino Rossi, ha tentato l'attacco all'esterno. Fuori Valentino Rossi dopo la vittoria di Misano. Peccato, ha tentato fuori Annone, fuori Rossi, aggressivo, è uscito fuori dal cordolo, sempre sul bagnato. Finalmente dopo tanto tempo senza vincere, questa vittoria sale moltissimo, e anche di più con queste condizioni tanto difficile. E quando è passato per meta mi hai visto il 12. Puoi dirlo. Del terzo al quarto faccio il 12 questa volta, peccato, no? Però la siguiente volta, quando ho visto la lavagna, era primo. Ho detto, dai, ostia, che lo facciamo questa volta. Tutti convocati. È una squadra che vuole diventare grande, una squadra che ha iniziato un percorso e ha anche giocato delle buone partite fino ad oggi, non può prendere gol che abbiamo preso noi. Cioè, hai trovato le difficoltà si devono superare. Se prendi 4 gol perché gli altri arrivano prima sul pallone, in prima occasione addirittura fai un assist, e le altre sono situazioni di palle che girano in area di rigore, arrivano sempre gli altri, vuol dire che oltre a un aspetto fisico è mancato secondo me anche un discorso mentale, e questo non deve succedere. Questo era Piero Ausilio, l'analisi più lucida sull'Inter e dall'interno dell'Inter che ho sentito ieri. Lucida, perfetta, spietata di Piero Ausilio, direttore sportivo nerazzurro. Intanto due cose dall'Inghilterra. La prima, è la conferenza stampa di Pellegrini, di Manuel Pellegrini, che precede la partita con la Roma. Parole di circostanza: ci aspetta una partita difficile, ma possiamo farcela. Già l'anno scorso ho perso la prima, poi ne ho vinte 5 di fila. Insomma, queste le parole di Pellegrini, che peraltro domani si gioca tantissimo. Si gioca tantissimo proprio perché la prima non è andata particolarmente bene. Allora, Hart giocherà titolare, recupera Jovetic, fuori Nasri. Queste le notizie che arrivano da Manchester. Ma la panchina più scarognata del mondo non è certamente quella del City, no, che è d'oro, non è quella dell'Inter, ma è quella del solito Watford. Vi ricordate il Watford? Abbiamo parlato qualche settimana fa con Sannino, allora che Sannino che ha detto no, lascio perché non riesco a, non sono me stesso, non riesco a lavorare come vorrei, eccetera eccetera. Di fatto però aveva già trovato un altro ingaggio in Italia, ha preferito tornare indietro. Comunque ha lasciato la panchina del Watford con la squadra prima in classifica, 5 partite, 4 vittorie. Ebbene, era stato preso al suo posto Oscar Garcia, che però ha problemi cardiaci. Non so se gliele abbia fatto venire la squadra stessa. Fatto sta che deve lasciare anche lui, e sotto con un altro allenatore, tale McKinley. Vedremo come andrà. Domenico, provincia di Teramo, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Siamo da Giulianova, provincia di Teramo. Giulianova. Io volevo dire che ieri sono stato a Cesena, sono tifoso del Milan. Purtroppo, diciamo, non che ci eravamo illusi, però almeno nelle prime due partite si era visto qualcosa. Che si vedeva, si intravedeva. Adesso invece siamo tornati come l'anno scorso, cioè un gioco, si gioca, si volta a segnare, la prima occasione prendiamo gol. Secondo me il problema è non tanto né a difesa né a centrocampo, né attacco ma al centrocampo. Sì. Bisognava intervenire a centrocampo con qualcuno dai piedi buoni. Sono d'accordo sul fatto che il Milan abbia un centrocampo non di livello. Non di livello. Lo so perché ho visto dal vivo che purtroppo non c'è niente da fare. Inzaghi è simpatico, però secondo me No, ma poi bisogna capire, ripeto, bisognerà fare anche delle scelte dal punto di vista offensivo, perché è chiaro che il Milan, ammassando tutti quegli attaccanti, ha perso quella minimo di identità che sembrava aver trovato nelle prime due partite stagionali, nelle quali Torres non c'era, ma come sto dicendo, Torres è probabilmente la giocatore di maggior livello tra tutti gli attaccanti del Milan. In questo momento il migliore di tutti è nettamente Menez, quindi ieri ha provato anche a prendersi la squadra sulle spalle, ma non trovava gli spazi, non trovava il guizzo. Bravissimo nel saltare l'uomo, si vede che sta molto bene. Probabilmente si poteva proseguire con l'esperimento delle prime due partite, no? Quindi Menez e El Shaarawy è sparito, Menez falso 9 e due attaccanti laterali. Questo Milan, ripeto, sembrava avere una fisionomia, un'identità precisa dopo le prime due gare, magari anche un pelo difensiva, no? Come atteggiamento, e poi ha perso la strada, ma credo anche con la complicità di ingerenze esterne che lei ben conosce, no? Quindi c'è la presidenza che vuole vedere comunque tre attaccanti in campo, e di lì non si scappa. Centrocampo rivedibile, manca Montolivo, ma ha pochissima qualità a centrocampo il Milan. La difesa, beh, vediamo, ma fino adesso Alex ha giocato poco. Vedo De Sciglio in notevole ritardo di condizione, non ha certo avuto un buon inizio di stagione. Vediamo quando tornano su buoni livelli questi qui. Luigi Napoli, buongiorno. Buongiorno. Dica. No, niente, volevo parlare dell'Inter, no? Sì. Volevo parlare di Mazzarri. Come no? Praticamente per me Mazzarri è una grande squadra, perché se lei vede i numeri negli anni dove ha allenato, sì. Non ho capito? Tiro al Mazzarri oggi, c'è il tiro al piattello, c'è il tiro al Mazzarri. Mazzarri sono anni che che vedo che non è un allenatore della grande squadra, l'ho sempre detto. Ma se vedi i numeri, lui come a livello difensivo ha sempre subito parecchi gol, ma se vedi i numeri nella Serie A, lui ha avuto sempre minimo 40 gol. In qualsiasi campionato lui ha giocato, ha fatto giocare la squadra, quindi non è un allenatore che c'è equilibrio tra attacco e difesa, subisce sempre più di 40 gol, anzi minimo 40 gol, anzi quando è arrivato con il Napoli secondo, anche all'epoca ebbe 40 gol in un campionato, nonostante sia arrivato secondo, quindi non è un allenatore che sa fare la fase difensiva, perché non sa fare la fase difensiva, in genere, non è vincente. Luigi, c'è la fase difensiva e poi ci sono gli interpreti, lei si ricorda anche gli interpreti di quella difesa del Napoli? Ma io parlo della statistica. Parliamo di statistica. Di statistica, però io parlo anche di Aronica, di Cannavaro, di giocatori. La Juve con gli stessi difensori, del Nini prendeva 50 casalla al campionato, è arrivato Conte, non gli prende 50 gol al campionato. Quindi l'allenatore fa la differenza, Manzani non l'ha mai fatto. Non è un allenatore che fa il salto di qualità, non l'ha mai fatto, non lo farà mai. Non lo so, cioè, a Napoli ha fatto fare un bel salto di qualità, cioè, non possiamo dire, nemmeno i peggiori detrattori di Mazzarri possono dire che a Napoli Mazzarri non abbia lavorato in maniera praticamente perfetta, no? Ricordo il materiale umano a disposizione di Mazzarri, il personale di Mazzarri, soprattutto difensivo in quel Napoli. Poi aveva preso un po' di gol, ma vi ricordate com'era il Napoli, chi erano i giocatori di quel Napoli? Ed è arrivato secondo. Che è una squadra che vuole diventare grande, una squadra che ha iniziato un percorso e ha anche giocato delle buone partite fino ad oggi, non può prendere il gol che abbiamo preso noi. Cioè, hai trovato le difficoltà si devono superare. Se prendi 4 gol perché gli altri arrivano prima sul pallone, in prima occasione addirittura fai un assist, e le altre sono situazioni di palle che girano in area di rigore, arrivano sempre gli altri, vuol dire che oltre a un aspetto fisico è mancato secondo me anche un discorso mentale e questo non deve succedere. Vabbè, Abbiamo, ce la faccio per il microfono. Abbiamo riascoltato l'ausilio furioso di prima, ad aggiornare il discorso sull'Inter. Adesso vorrei parlare di chi ha vinto il mondiale di ciclismo, cioè Kwiatkowski. Attenzione, si sta correndo da 6 ore e 30 minuti, alza le braccia al cielo Kwiatkowski e va a vincere Kwiatkowski in seconda posizione, è classificato Simon Gerrans, terzo Valverde, ma ha vinto Kwiatkowski, pensate, con un solo secondo di vantaggio sul suo avversario. E beh, casino organizzato non è stato sufficiente, Pier Augusto Staggi. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Non è stato sufficiente il casino organizzato che aveva evocato Davide Cassani perché la prima punta non ce l'avevamo. Beh, un po' di caos è stato fatto e devo dire che con un bricio di fortuna in più, con qualche momento in più in nostro favore, una medaglia poteva scapparci, ad esempio nell'azione finale, quella creata da Alessandro De Marchi, che secondo me è stato uno dei migliori, se non il migliore, insieme a Fabio Aru, potevamo andare a medaglia se solo avesse trovato un compagno in squadra, un compagno di sfuga più determinato, più deciso, che gli dava qualche cambio. Invece era il gancio, quindi De Marchi è rimasto lì a tirare da solo, si è spolmonato, e quando è arrivato a 7 chilometri come un razzo il buon Kwiatkowski, non è riuscito a tenere il ritmo del polacco. Intanto dobbiamo dire che adesso è facile dire, vabbè, lo dici perché ha vinto, ma comunque Kwiatkowski non era assolutamente un signor nessuno. No, certo. Estremamente forte, cresciuto, ahimè, anche lui è uno dei tanti stranieri cresciuti in Italia, nella nostra Toscana, cresciuto in una provincia di Marina di Massa, in una formazione che si chiama MG Capavis Nord, e che sa parlocchiare anche abbastanza bene l'italiano, ed è un piccolo prodigio, perché questo ragazzo difenderà e onorerà la maglia di campione del mondo. L'Italia, tornando a quello che mi chiedevi, ha fatto un mondiale, credo, secondo me, con quello che aveva. Cassani ha provato a... Sei d'accordo sul voto di Cassani? Dice meritiamo 8 in pagella? No, 8 è eccessivo, 8 è eccessivo, però la sufficienza piena va data a tutti gli azzurri, con un bel 7 secondo me ad Alessandro De Marchi e Fabio Aru, che sono stati quelli che hanno fatto vedere le azioni tecniche più belle. un buon 6,5 anche a Visconti. Ci sono quelle che hanno detto: ah, ma Visconti andava usato nella parte finale, però ragazzi, Visconti ha vinto delle belle tappe al Giro d'Italia, un corridore di media resistenza, ma che non ha mai vinto una gara importante di cartello, una classica di 250 km. L'ordine d'arrivo di ieri è esattamente l'ordine di arrivo della Liegi-Bastogne-Liegi di quest'anno, no? Li ruotiamo alla, la Liegi-Bastogne-Liegi, che è considerata, a ragione, la classica più giusta perché è durissima, è un tappone dolomitico, ha vinto prima Simon Gerrans, secondo è arrivato Alejandro Valverde, terzo Kwiatkowski. È arrivato Kwiatkowski. Ecco, questi tre hanno rifatto il podio di questo mondiale, che era stato battezzato in maniera giusta da Castagna. Ha detto: ragazzi, non è durissimo, ma è duro. Alla fine l'ultimo giro rimarrà nelle gambe di tutti e verranno fuori i campioni. Infatti sono venuti fuori. Purtroppo il rammarico qual è? Il grosso rammarico, bisogna dirlo con tutto il tatto necessario per non essere fraintesi, è che un Vincenzo Nibali con una condizione all'80-90% era lì a giocarsi l'India. Sì. Perché quando è partito, io questa mattina ho parlato con Gianpaolo Caruso, che mi ha detto espressamente: quando è partito Kwiatkowski in discesa, è andato via, lui mi ha detto proprio a manetta, io ho guardato Vincenzo e rimasto fermo. Vincenzo sappiamo tutti che ha delle doti. Beh, certo, di discesista clamorose, quindi se ne avesse avuta sarebbe stato con lui. La caduta alla Trevalli e la caduta di ieri l'hanno condizionato. Quando cadi troppo, dopo fai la prima, certo, Wiggins e Contador, cioè al tour è andato tutto bene, tutti cadevano e lui rimaneva magicamente in piedi. Prima o dopo qualcosa al destino lo paghi. Grazie Pier. Grazie a voi. Ciao pomeriggio. Pier Augusto Stagi. Dunque Kwiatkowski, campione del mondo di ciclismo. Noi invece sentiamo informazioni per chi viaggia, poi torniamo per il gran finale. 800 24 00 24, numero verde. Ho sempre detto, sapevamo di non avere un finalizzatore e sapevamo di avere dei limiti se la corsa si fosse decisa sull'ultimo strappo. Così è stato, però devo dire che sono stati bravissimi, hanno corso da squadra, hanno onorato la firma di Alfredo, hanno onorato la maglia azzurra, hanno dato tutti il massimo e siamo sempre stati nel vivo della corsa. Ho preferito avere il peso io della nazionale, lasciare più tranquilli i ragazzi, infatti hanno corso molto bene da tutti, da Quinziato, da Bennati, da Aru che ha fatto un'azione in salita a metà gara, e Giampaolo Caruso, le fughe, quindi non si può dire niente alla nazionale, abbiamo veramente corso bene, purtroppo il risultato magari non è quello che tutti ci aspettavamo. Convocati. E poi devo salutare l'amico, gli volevo dire che c'ho l'anello ardito, c'ho il mosquito e la vorrei portare a Ostia Lido. Ciao d'amico! Meraviglioso, la voglio nella suoneria del telefono questa. Ma mettete per favore, io non sono capace. Invece, sulla via verso Madrid, in arrivo un regalo per la Juventus e i tifosi juventini. Perché dovrebbe essere a breve ufficializzato il prolungamento del contratto di Paul Pogba, che andrà a guadagnare 4 milioni netti a stagione fino al 2019. Proprio lui! Raffaele, provincia di Forlì Cesena, buongiorno. Salve signor Genda, buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Grazie, dica. Senta, io non vorrei tanto portarla per le lunghe, però io voglio la testa di Mazzarri calcisticamente parlando. Niente di meno. Eh sì, signor Genda, perché immagini la scena, io tutto là pronto che voglio vedermi una grande Inter e sono tutto là, inizia la partita, il Cagliari schierato 2-0-8 a centrocampo, chiamo la SNAI. 10 euro 6-0 per l'Inter e poi vado a vedere 4-1 per Cagliari con una squadra chiusa in difesa, se manco fosse Real Madrid. Raffaele incazzato nero fisicamente parlando, però signor Genda, complimenti per la trasmissione. Ma grazie Raffaele, complimenti anche a lei, molto simpatico, chiamato la SNAI. 6-0 per l'Inter dalla tribuna di San Siro, meraviglioso. Claudio, provincia di Pesaro, buongiorno. Buongiorno Piero Genta, io chiamo adesso anche per Mazzari, chiamo. Anche come lei vuole la testa di calcisticamente, calcisticamente. Vuole la testa perché di Mazzari anche, pure lei. Perché anche noi tifosi non è che pretendiamo lo scudetto da lui e dall'Inter, capito? Però almeno di essere lì accanto alla Sampdoria. Ma io capisco la rabbia. Due partite con tutte squadrette, a parte Torino, che anche il Torino non è quella dell'anno scorso. Ha fatto proprio una miseria di punti, non è che non ha fatto niente. Beh, ha fatto quelli di ieri, Claudio, ha fatto ieri. No, ma ha fatto quelli che ha fatto più o meno il Milan, che ha giocato, è vero, con la Juventus, ma ha pure perso con la Juventus. Il Milan ha fatto due punti con due neopromosse negli ultimi due turni. Il Napoli, vede anche lei dov'è, ha fatto pure peggio rispetto all'Inter. Non pensa che se si dovesse tagliare calcisticamente la testa di Mazzarri in questo momento sarebbe la stagione prenderebbe una piega ancora peggiore? No, cioè, lo prenderà uguale. Non so, ma io non sono così. Cioè, molto spesso ho criticato Mazzarri in molte situazioni, occasioni. C'erano delle cose di Mazzarri che non mi piacciono, come ad esempio il seguire molto spesso l'onda dell'alibi, dell'episodio, del rigore che c'era, non c'era, dell'episodio arbitrale. Questo lamentismo a me non piace, però sinceramente in questo momento non vedo un solo motivo per cambiare allenatore all'Inter. Cioè, l'Inter è una squadra che ha le potenzialità per arrivare terza. Mazzarri è una squadra che è fatta su misura per lui. Non è certamente una squadra del livello della Juventus e della Roma. Detto questo, ieri ha fatto qualcosa di inspiegabile, come qualche volta succede, come le grandi squadre non fanno mai, perché le grandi squadre possono sbagliare la partita, ma non in quel modo. Magari la partita sbagliata te la pareggiano invece di vincerla, insomma riescono in qualche modo a riequilibrare e riequilibrare le cose e a riequilibrarsi. L'Inter ieri è andata lì senza gambe, senza testa, senza determinazione, è stata presa a schiaffoni letteralmente dall'inizio alla fine. È chiaro che le grandi squadre non sono così, non fanno così. L'Inter in questo momento non è una grande squadra, però è un organico che può competere per il terzo posto, perché al di sotto del profondo niente, laddove c'è il profondo niente, come abbiamo detto prima con Maurizio Crosetti, ebbene in questo profondo niente io continuo a pensare che l'Inter abbia un organico attrezzato a sufficienza, e cambiare Mazzarri in questo momento non avrebbe veramente alcun senso, almeno per me. Però se volete domani torniamo a parlarne, anzi lo faremo di certo. Franco Piantanini, nostro autore, Roberto Scaltritti in regia, Claudia Schiattoni in redazione. Ciao, a domani. Non avete niente altro da fare? Il calcio in Italia è sempre vecchio, è sempre la stessa cosa, è sempre la stessa cosa. Lo sapeva il signor Jones che a quel debosciato del signor Walter Hagen, che a quanto so passa il suo tempo libero a caccia di gonnelle, è stato richiesto di partecipare il mese prossimo a Crewe Island a un match di esibizione? No, non lo sapevo. Il motivo della mia visita di oggi è che per il sud lei è un grande eroe. La vedono come un giovane dio, prove, valoroso, glorioso. Uno dei più grandi golfisti che il mondo abbia oggi. Io direi il più grande golfista che il mondo abbia oggi, se non fosse per quello sfortunato incidente dell'anno scorso, quando quel debosciato del signor Hagen l'ha stracciata per 12 colpi sotto sul suo campo. Tutti convocati. Ma...